Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, giornata molto densa. Vi dico subito di cosa parleremo. Parleremo del debito portoghese, nuovamente abbassato il voto da Standard & Poor's, ormai è al livello prima del livello non investment grade, che vuol dire semplicemente un livello sconsigliato all'investimento, e questo è il Portogallo. Poi ci sono le vicende di casa nostra, che si chiamano banche e soprattutto ricapitalizzazione di queste banche. Perché lo dico? Perché UbiBanca adesso perde quasi il 13%, è un tonfo vero e proprio, e anche il Banco Popolare perde il 7%, la Popolare di Milano 6,5%, il 4,60% il Carlo del Monte dei Paschi, il 4,40% quello di Intesa San Paolo, il 4% Fondiaria, il 3,70% Unicredito. È chiaro però che se Intesa e anche Monte dei Paschi risentono dello scetticismo generale sul Banco Popolare e la Popolare di Milano e UbiBanca, invece c'è una maggiore insistenza nel ritenere che arriverà un aumento di capitale. Ora, l'aumento di capitale non piace al mercato, vedo già i messaggi al 349-238-6666, perché altro non vuol dire che chiedere soldi al mercato. Perché? Perché evidentemente ci sono delle sofferenze, c'è bisogno di ricapitalizzare la banca per vari, quelle che possono essere svalutazioni o anche forse crediti incagliati. Detto ciò, non c'è alcuna notizia certa, anzi il mercato sta operando solo sulle voci e nonostante anche le smentite. Ma da voi qualche buona notizia mai? Chiede un ascoltatore. Sì, per esempio il fatto che oggi l'euro sia quota 1,40, non so che notizie buone volete che vi dia, non possiamo inventarle. L'Irlanda è sotto pressione quanto il Portogallo, le banche italiane sono ritenute dal mercato a rischio altissimo di ricapitalizzazione. La buona notizia, se vogliamo, è che avremo il nostro ospite alle 18:05, il numero uno, l'amministratore delegato dell'Expo di Milano. Perché lo dico? Perché quasi 3 anni fa, manca un giorno in realtà, Milano vinceva, l'Italia vinceva l'assegnazione dell'Expo 2015. Allora sarà l'occasione per fare il punto con una persona che, lo dico subito, è ritenuta anche dall'opposizione, quindi dal PD milanese e lombardo, un manager da tenere, quindi un vero manager. Dopo un avvio difficile per essere buoni, tra un anno perso a cercare con insistenza del sindaco per avere il nome di Glisenti, poi bocciato, un altro anno perso perché il primo amministratore delegato all'Expo, Lucio Stanca, insomma, non riuscì poi a incidere sull'avvio dei lavori. Adesso con Sala, che è arrivato a luglio, tutti si attendono che, una volta dati i soldi del comune per la parte operativa di adesso, e una volta sbloccato il tema delle aree, si arrivi entro giugno dalle vie libera ai lavori, non di bonifica ma di pulizia dell'area. E sarà l'occasione per dare fiducia anche a questo manager, ma anche capire quali ostacoli vi siano alla partenza vera e propria dei lavori dell'Expo, 1,7 miliardi in ballo. C'è chi suggerisce come buona notizia che oggi c'è il sole, ci mancherebbe. E ancora sui temi di questa puntata, dico subito che affronteremo anche il tema degli altri mercati, perché Milano perde 1,20%, in realtà Parigi è invariata, Francoforte meno 0,30, Londra addirittura più 0,12, in America guadagnano 0,36%, per cui il caso di borsa oggi è veramente solo milanese. Parleremo anche del nuovo volto delle mafie, perché vi è stata un'importante audizione oggi al Parlamento europeo del procuratore generale di Caltanissetta Roberto Scarpinato, a lungo magistrato antimafia a Palermo, e una relazione in cui Scarpinato ha toccato i temi del capitalismo legale, di quello mafioso e dell'espandersi anche a livello economico dei cosiddetti sistemi criminali. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Restiamo sui mercati. Oltre alle banche, oggi anche in borsa si segnala Fiat più 1,80%, Tenaris più 1,30% come Enel, e l'automatica A2A più 1%, Telecom più 0,80%. L'oro in leggero calo a 1418 dollari l'oncia, il petrolio anch'esso in leggero calo a 103,25 dollari al barile, e il presidente del Consiglio Nazionale Provvisorio Libico, Mustafa Abdel Jalil, ha detto che rispetteranno il Consiglio Nazionale Provvisorio, quelli che alcuni chiamano i ribelli, insomma rispetteranno tutti i trattati firmati con l'ENI, con tutte le altre compagnie petrolifere. C'è però un timore dal caro commodity, come si chiama in gergo, ossia l'aumento dei prezzi delle materie prime. Lo ha sottolineato oggi il direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, a margine dei dati di bilancio 2010 di Federalimentare. Quando uno fa una previsione dice anche dove stanno i rischi e le opportunità. In questo momento vediamo più rischi che opportunità, diciamo, di crescere più di quello che era lo scenario base, cioè una crescita attorno all'1%. Anche le materie prime agricole aumentano moltissimo perché cresce la popolazione mondiale, ma soprattutto cresce quella quota di popolazione mondiale che ha accesso ai consumi, questa è una grandissima sfida a livello mondiale. I rischi vengono anche da altri fattori, per esempio dal fatto che le politiche di bilancio necessariamente devono essere restrittive in tutti i paesi, poi perché qualcuno ha il debito pubblico troppo alto, qualcun altro ha il disavanzo pubblico troppo alto. Le stime di consenso sono qualcuna leggermente sotto, qualcuna leggermente sopra, ma diciamo attorno all'1%. Il rischio è che se persiste l'aumento delle materie prime, il rischio di andare sotto queste stime qua. E l'altro rischio che ci potrebbe portare sotto è una fortissima contrazione dei bilanci pubblici concentrata in un breve periodo di tempo. Così appunto il direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli, che come ricordavamo ha parlato a margine del bilancio 2010 di Federalimentare, un bilancio in cui ha dimostrazione che la nostra industria, ne abbiamo parlato ieri con Marco Fortis, la nostra industria agroalimentare è un gioiello del paese, non un gioiellino, quello è il film su Parmalat, ma un gioiello, più 10% l'export del settore agroalimentare a 21 miliardi di euro, e mi fa piacere dare questi dati visto che tra due settimane andremo in diretta da Verona per il Vinitaly e il vino è la voce principale nell'export agroalimentare, il settore vitivinicolo. Comunque più 10%, tra l'altro è un recupero che va oltre il calo del 2009, l'export agroalimentare nel 2009 fece un meno 4%, quindi un più 10%. Va oltre, e tra l'altro l'ultimo trimestre del 2010 è stato particolarmente buono nel settore agroalimentare, più 12%. La volevate la buona notizia? Eccola qua. Poi le buone notizie non arrivano mai da sole, c'è anche il timore, come sentivamo, non solo del direttore generale di Confindustria, ma degli stessi addetti e responsabili di Federalimentare, che e gli aumenti nei prezzi della produzione, gli aumenti delle materie prime portino ad aumenti nei prodotti finali tra il 3 e il 4 per cento, sempre nel settore agroalimentare. Chiaro che si è parlato a margine anche di Parmalat, il gioiellino in questo caso, e se Lactalis ieri sera ha fatto notare come in Francia la legge anti-OPA, quella che tutela i settori definiti strategici, non preveda il settore del latte come strategico, perché gli settori strategici sono difesa, armi, ordine pubblico, produzione di agenti patogeni, ma non sono per esempio considerati settori strategici dalla legge francese il settore energia, auto e il settore alimentare. Il leader della Lega, Umberto Bossi, ha detto: abbiamo dato già la risposta all'ultimo Consiglio dei Ministri, abbiamo bloccato tutto, i francesi non prenderanno niente. E invece il direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli dice: ok, attenzione però, Confindustria ha auspicato la creazione di un polo alimentare in Italia, ma auspica anche che questo avvenga nel rispetto delle regole di mercato, altrimenti si creano problemi in merito agli investitori. La Francia è un mercato importante. L'industria, come avete visto, si è espressa tra l'altro per il tramite del proprio consiglio direttivo, quindi c'è stata una discussione ampia e noi abbiamo espresso da un lato l'auspicio, siamo italiani, quindi l'auspicio che si possa creare o consolidare, diciamo, un polo di riferimento dell'alimentare in Italia. Questo senza che questo sia debba essere interpretato come un invito o peggio ancora una indebita pressione di Confindustria su questo o quel nostro socio. Quindi ogni azienda fa ciò che ritiene opportuno, dopodiché noi come Confindustria italiana e non di altri paesi auspichiamo che questo avvenga. D'altra parte abbiamo espresso anche perplessità, nel senso che rispetto a interventi che cambiano in corsa le regole del gioco e che possono creare ulteriori difficoltà ad attrarre investimenti esteri in Italia. Così appunto Giampaolo Galli, direttore generale della Confindustria, la base è cambiata e questo vuol dire che c'è il nostro primo tema. Il primo tema di nuovo si chiama attacco o dubbi, timori sui debiti sovrani, cioè sui debiti di alcuni paesi europei. Oggi è stata la volta di Portogallo e Grecia. Tra l'altro se ne è discusso oggi a Roma anche perché, in coincidenza con questa giornata, compiva 30 anni la storica rivista quadrimestrale Economia Italiana, un convegno molto importante oggi, devo dire, alla Banca d'Italia. Erano presenti il direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, l'economista, già nostro ospite altre volte, Gian Giacomo Nardozzi, Michele Salvati dell'Università di Milano e l'editor della rivista Economia Italiana, che è Paolo Savona, e siamo in collegamento proprio con il professor Savona. Professore, buonasera. Buonasera. E insegna politica economica ed è preside della Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università Guglielmo Marconi di Roma. Numerosi incarichi che ha ricoperto in questi anni, è stato anche ministro, lo ricordo, dell'industria del governo Ciampi, quindi 93-94, e direttore generale di Confindustria dal 76 all'83. L'attualità, professor Savona, oggi l'agenzia di rating Standard & Poor's ha abbassato ulteriormente il voto al Portogallo e alla Grecia. Nel caso del Portogallo lo ha portato a una tripla B meno, ossia l'ultimo livello prima di non essere più a livello di investimento. Le chiedo, lei teme l'effetto domino oppure anche in questo caso, dopo la Grecia e l'Irlanda, potrebbe limitarsi al solo Portogallo con qualche ricaduta sulla Spagna? Guardi, il problema di fondo è che il mercato non è convinto dei provvedimenti che l'Europa ha preso e quindi ritiene che il rischio di default, di insolvenza del debito pubblico di questi due paesi sia cresciuto, non si sia ridotto. Se a un certo punto invece gli interventi dell'Europa fossero stati efficaci, come taluni hanno sostenuto sulla stampa, sì, pizziche di insoddisfazione, ma fondamentalmente gli accordi che dall'11 di marzo in poi si sono susseguiti sono considerati positivi, ma il mercato non li considera tale. Allora, in questo quadro, che direi una crisi possa sfiorare anche l'Italia, non è oggi probabile, ma è sempre possibile. Non è probabile perché per ora i conti italiani e la situazione generale, pur stagnando dal punto di vista della produzione e dell'occupazione, non sta peggiorando. Quindi per ora siamo protetti, ma finché la protezione europea non sarà efficace, l'indicatore infallibile sarà il premio al rischio. Il giorno in cui si annulleranno i premi al rischio sul debito pubblico, anche quelli italiano, allora significa che l'Europa funziona bene. Su questo c'è già chi sta polemizzando con la Banca Centrale Europea, che ha annunciato a marzo che ad aprile avrebbe probabilmente rialzato i tassi. Nel frattempo c'è stata la Libia e quindi anche, ma soprattutto sono peggiorati i giudizi delle agenzie di rating e dei mercati sui paesi così più limitrofi. E lei ritiene che la Banca Centrale Europea sbaglierebbe ad alzare i tassi ad aprile? Dunque, intanto spero che valuti la nuova situazione dopo le dichiarazioni di Trichet. Comunque, se dovesse alzare i tassi, questo renderebbe ancora più difficile la sistemazione dei debiti pubblici in eccesso, compreso quello italiano, perché naturalmente con un debito pubblico che supera il PIL, l'1% di incremento prima o dopo significa 1% di disavanzo pubblico in più. Lei, in un articolo che è uscito sul Foglio a fine 2010, sostenne, insomma, attenzione, il cappio europeo sta stringendo al collo l'Italia, in riferimento da sempre, diciamo, ai debiti sovrani, e forse conviene uscire dall'Unione o dall'Euro, addirittura sull'esempio di quanto fatto dalla Gran Bretagna. Era una provocazione o ci crede veramente? Dunque, intanto non ho detto che è giunto il momento di uscire, è giunto il momento di discutere seriamente. È un po' come il discorso delle garanzie che ho fatto prima. Se non passiamo all'unione politica, perdere la sovranità monetaria e perdere pezzetti di sovranità fiscale, perché è noto che tra gli accordi c'è anche quello che il bilancio italiano verrà giudicato sulla base di parametri, che sono parametri restrittivi, allora in questo caso prendere in considerazione un'uscita dell'euro non è che sia un qualcosa che porti necessariamente a uscire, ma è un dovere dei gruppi dirigenti farlo. Non vi sono accordi permanenti, se non condividendo le sorti di tutti, quindi facendo l'unione politica, che debba essere rispettata. Per cui la discussione è una discussione doverosa, non so dove possa portare. Certamente, se dovessimo giungere a una conclusione, dovremmo tanto avere una lista delle cose che dobbiamo fare per rimanere nell'euro. Se non ce la sentiamo di farlo, non è che ci possiamo infilare come ha fatto il Portogallo e la Spagna. Dobbiamo necessariamente prendere altre decisioni. Allora si deve fronteggiare il rischio di una crisi che nascerebbe dall'abbandono dell'euro. Mi scusi, probabilmente ci viene anche imposta dall'esterno. Mi scusi, professor Savona, ma per quel poco che capisco io di economia, ma in questo momento un paese come il nostro, con il più alto debito pubblico in Europa, non trae più che altro vantaggi dall'euro, nel senso che i risparmi degli italiani e comunque i risparmi sono messi al sicuro dall'ombrello dell'euro. La svalutazione non ci colpisce, comunque vada, hai a che fare con una moneta forte e anche i tassi di interesse sono tassi di interesse europei, quindi bassi. Cioè, se dovessimo uscire dall'euro, paradossalmente avremmo una ipersvalutazione, un'inflazione importata altissima, pagheremo tantissimo le materie prime e avremo anche i tassi di interesse che potrebbero inesorabilmente a un aumento dell'inflazione, o no? Dunque, intanto questo quesito lo dobbiamo risolvere ai disoccupati, in particolare ai giovani, insomma, come la pensano. Non io e lei, che naturalmente questo problema in questo momento non l'abbiamo. Il discorso di fondo è che esattamente uno shock forte all'economia convincerebbe gli italiani che è giunto il momento di mettere mano alla propria economia e alle proprie regole di convivenza. Naturalmente questo porterà a una crisi, ma poi recupereremo l'iniziativa per rimetterci sulla strada dello sviluppo. Cioè, io non ho paura, la storia d'Italia dice che le grandi cose le abbiamo fatte sotto forti shock. Le due guerre mondiali furono forti shock e direi il dopoguerra abbiamo attraversato periodi, compreso gli anni 70, che suggerirono di creare la rivista Economia Italiana. Negli anni 70 l'Italia passò una delle peggiori crisi economiche, sociali e politiche, le Brigate Rosse, la crisi della disoccupazione, le crisi delle imprese, eppure siamo riusciti a uscirne e non avevamo quei vincoli che ha oggi l'Italia attraverso i trattati europei. Quindi questo non significa che io non sono europeo, significa che questo problema va posto sul tappeto, oggi non ne discutiamo. Quindi lei mi sembra che sia d'accordo con alcuni suoi colleghi, me ne viene in mente uno, Franco Bruni, qualche tempo fa in questo programma, che disse paradossalmente il peggior difetto dell'euro e che ha anestetizzato le coscienze degli italiani. Cioè, quando c'era la lira, l'economia veniva mal gestita, la lira svalutava, tutti ci rendevamo conto, pensiamo al 92, che la situazione non poteva reggere, perché la lira pigliava una sberla dopo l'altra e a quel punto facevi passare anche nel paese delle manovre lacrime e sangue. Avendo l'euro, uno sa che i risparmi sono tutto sommato protetti dallo scudo dell'euro e quindi c'è meno coscienza nazionale, nell'opinione pubblica, dei rischi che corre la nostra economia. E questo, secondo lei, forse l'effetto più distorsivo dell'euro? Può essere interpretato anche con questo linguaggio. La realtà è che Mentre noi oggi con l'euro non è che siamo certi, come non è certo il Portogallo e la Spagna, di essere fuori dalla crisi. Questo è il problema di fondo. Non siamo fuori da una potenziale crisi e quindi perché non prepararsi prima e discutere di che cosa va fatto per stare nell'euro e discutere di che cosa va fatto se non ci riusciamo a stare e dobbiamo uscire. Questo è semplicemente il dovere, le cose cambiano, il mondo cambia e quindi i gruppi dirigenti devono essere in grado di fronteggiare le situazioni nuove che si presentano. E la situazione oggi come oggi è quella di dire si fa troppo poco nel rigore monetario, si fa troppo poco nel rigore fiscale, si fa troppo poco nelle infrastrutture, si fa troppo poco, però dopo aver individuato la diagnosi di che cosa fare per uscire dalla situazione, poi non si fa niente. Occorre uno shock, perché è l'unico modo, e ripeto, la storia della società italiana dice che gli italiani si muovono e si danno da fare, sono capaci di affrontare le difficoltà. Se invece gli diamo l'illusione di cavarcela ugualmente passando per la tangente, probabilmente non si farà mai niente e ci troveremo poi alla fine, diciamo, nelle condizioni degli altri. Parafrasando Brecht, sognerei anche un paese che non ha bisogno ogni volta di arrivare sul baratro per fare delle riforme. Comunque, d'accordo con lei e d'accordo con quello che la memoria storica che lei rappresenta, purtroppo in questo paese, un po' come la nazionale di calcio, le cose migliori si sono fatte in situazioni emergenziali o quasi emergenziali. Colgo quindi l'occasione della sua memoria storica, che non è un'offesa in Italia, per chiedere un giudizio su questi 30 anni. L'economia italiana ha accompagnato 30 anni di economia del paese. Oggi ho visto anche dichiarazioni sulla necessità di ridurre ulteriormente la spesa pubblica. È un'economia che è più virtuosa rispetto a 30 anni fa. Noi ricordiamo un'Italia degli anni 80 in cui la spesa pubblica andò fuori controllo, oppure secondo lei il giudizio è più vizioso sull'andamento dell'economia che virtuoso? La risposta più equilibrata è che è un'economia diversa, perché le pubblicazioni iniziano nel 1979 al termine, chiamiamolo, della crisi petrolifera, continuando a usare questo termine. Poi due anni dopo, come noi sappiamo, avvennero delle cambiamenti di fondo sul mercato del lavoro e anche nella politica italiana, e si parlò addirittura di nuovo rinascimento. Dopo abbiamo, per accelerare i tempi e i ricordi, abbiamo avuto Tangentopoli, eliminazione di un intero gruppo dirigente, sostituzione con un qualcosa che siamo abituati a chiamare Seconda Repubblica, per poi arrivare al crollo del muro di Berlino e all'arrivo della Cina e dei paesi in via di sviluppo. È completamente una diversa economia. Mentre prima eravamo più o meno confinati nell'area occidentale, pur con tutti i problemi riuscivamo attraverso le iniziative delle imprese a fronteggiare la situazione, oggi il tutto diventa più difficile, non solo perché sono arrivati sul mercato 2 miliardi e mezzo di nuovi, chiamiamoli, produttori consumatori, ma il fatto che anche la geopolitica mondiale non è più la stessa. Quindi se però lei mi chiede le cose vanno bene o vanno male, io penso che per l'economia, io non sono uno che pensa che noi stiamo su un declino negativo inevitabile. Siamo in un momento di difficoltà economica che però possono essere superati. E che il mercato globale, consentendo alle imprese e agli imprenditori bravi di poter ovviamente svilupparsi al di fuori del sistema italiano, il problema, chiamiamola la patata calda, resta nelle mani della società e della politica, e quindi il problema è soprattutto confinato da questo lato. Grazie all'economista professor Paolo Savona. Grazie a lei. Due risposte rapidissime. Dunque, anche la Lega Nord sostiene che bisogna uscire dall'euro. Allora, infatti nessuno ha mai avuto nulla da obiettare. Personalmente quello che penso, che Savona insomma si sbagli, ma è giusto fare sentire anche, e anche la Lega Nord si sbagli sull'uscita dall'euro. Penso che in questo momento di tutto si abbia bisogno, tranne che di non proteggere i risparmi, l'ho detto tranquillamente all'economista Paolo Savona. Dopodiché ha un senso anche il suo ragionamento, dice: se non c'è l'Europa politica, allora attenzione che in questo caso l'Italia è giusto che abbia uno shock. Lui non dice che staremo meglio uscendo dall'euro, questo lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666. Poco fa ha sostenuto che uscire dall'euro comporterebbe un tale salasso e un tale, diciamo, tracollo da far svegliare il paese. È un po' diverso il ragionamento. Attenzione, è come levare l'aspirina a una persona per fargli capire quanto stai male, non è per farlo stare meglio. Poi c'è chi dice: sul baratro ci portano quelli come lei che vogliono costruire le centrali nucleari quando non riusciamo neanche a smaltire la monnezza. Allora, che non riusciamo a smaltire la monnezza purtroppo è vero. Il sottoscritto si è solo permesso di avviare ancora 2 anni fa un dibattito pro o contro il nucleare, dicendo: attenzione, ce l'hanno anche altri paesi, si può ragionare del nucleare. Certo che adesso sull'onda emotiva non si può ragionare, ma secondo me il dibattito c'è tutto, e poi ognuno la pensi come vuole, e ci mancherebbe anche su questo. Adesso però la borsa. -1% Milano, con un +0,30 Parigi, invariata Francoforte, e Londra +0,40 come l'America. In realtà questo -1% non racconta la giornata oggi, perché la giornata è stata tranquilla per la maggior parte dei titoli. Penso a Fiat, che ha guadagnato anche l'1,85%, Fiat Auto, Enel +1,60, Tenaris +1,5, Telecom +1,30. E ancora l'automatica +1,20 come Snam Rete Gas, A2A +1% come Saipem e Xor, lo 0,70% di Atlantia e di Finmeccanica. È stata leggermente negativa per altri titoli, mi riferisco a Media, 7,5 punto percentuale di calo, Ansaldo -1% come Buzzi Unicem, Le Generali -1,40 come Mediobanca, Diasorin -2,60%, e poi però c'è una pattuglia di titoli, tutti bancari, che ha vissuto un'altra giornata, un mondo parallelo. Allora, UbiBanca -12,3%, Popolare di Milano -7%, Banco Popolare -7%, Monte dei Paschi -4,5%, Intesa San Paolo -4,5%, Fondiere Sai -3,90%, Unicredito -3,70%. Quindi due pagine e due giornate completamente diverse. Se tu eri bancario e sei bancario è una cosa, come titolo. I non bancari tutto sommato si sono mossi in linea con il resto d'Europa, ma chiedo conferma a Livia Zancaner. Buonasera. Sì, allora, come dicevi tu, su Milano ha pesato sicuramente l'andamento dei titoli bancari. Questo perché ieri a mercati chiusi UbiBanca ha annunciato totalmente a sorpresa un aumento di capitale fino a 1 miliardo di euro. Quindi in borsa sono tornati i timori relativi al fatto che altre banche italiane possano ricorrere al mercato e quindi a chiedere soldi agli investitori per rafforzare il proprio patrimonio. Ed è per questo quindi che l'annuncio di UbiBanca ha scatenato una reazione a catena sulle altre banche. Basta pensare a MPS, che ha perso oltre 4,5% pur avendo annunciato oggi conti positivi e comunque la distribuzione di un dividendo. In realtà è colpa vostra come agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, perché la prima è una colpa chiaramente che è un merito, ma la prima anticipazione di un aumento di capitale, se non ricordo male, Livia, l'avete data voi 2 o 3 giorni fa, fammi pensare, venerdì o giovedì, sul Popolare di Milano, no? Sì, assolutamente sì, infatti la settimana scorsa abbiamo anticipato appunto che la Banca Popolare di Milano sta studiando un'operazione da 600 milioni di euro a cui potrebbe partecipare anche la Sator di Matteo Arpe, e in effetti ieri la società ha annunciato di aver avviato la riflessione sull'opportunità appunto di lanciare una ricapitalizzazione sul mercato. Però voglio dire, non c'è nessuna notizia nemmeno smentita, cioè, insomma, mi sembra di poter dire che UbiBanca, allora, il Monte dei Paschi, lo ricordavi già tu, i conti li ha diffusi, sono anche buoni, l'utile netto è salito a 985 milioni di euro sopra le attese, è tornato anche a distribuire dividendo 2,5 centesimi, no? Per azioni ordinarie, e ciononostante si è preso -4,5. Però UbiBanca, perché ce lo continuano a chiedere gli ascoltatori, una banca molto importante nella zona Bergamo, Brescia e anche Milano, ma insomma non ha diffuso niente, no? No, in realtà ha annunciato appunto a sorpresa, sì, questa ricapitalizzazione, e questo aumento di capitale è stato giudicato appunto inatteso dagli esperti, sia per le dimensioni sia per il timing. Ma dico, no, quello che dico è non giustifica almeno 12% l'aumento di capitale fino a 1 miliardo, o no? Ma in realtà praticamente oggi sono arrivate anche delle stime sul mercato in relazione al al rafforzamento patrimoniale necessario alle banche in vista di Basilea 3 del 2013. Quindi è su quel calcolo che si sono mossi i titoli, cioè dicendo se ne ha avuto bisogno UbiBanca, riragioniamo sulla patrimonializzazione richiesta da Basilea 2. No, te lo sai perché insisto? Perché voglio dire, il Banco Popolare ha già fatto il suo aumento di capitale, anche qui Radio Corriere sulle 24 ore fu la prima a avere la notizia, eppure ha perso anche lui il 7%. Sì, infatti, allora, la questione è questa. Allora, praticamente, con l'aumento di capitale, il ratio di UbiBanca si alza dal 7% all'8%, e quindi alza di fatto... Che è il ratio di UbiBanca? È il coefficiente patrimoniale, e di fatto quindi questa mossa alza, per modo di dire, l'asticella che gli investitori chiederanno anche alle altre banche italiane. Quindi, secondo le stime, al momento sarebbero a posto solo Unicredit ed Intesa San Paolo, mentre le altre banche avrebbero bisogno di rafforzare il patrimonio appunto per aumentare questo livello, ed è per questo che l'annuncio ha annunciato delle vendite a catena su tutte le banche, cioè sui titoli bancari a Milano. Sì, è il ricalcolo, diciamo, anche per chi l'aumento l'ha già fatto. Dopodiché mi chiedete sulla Popolare di Milano, nessuna notizia, però chiedo conferma anche a Livia sui 600 milioni ipotizzati di aumento di capitale, no? No, oggi no, non oggi no. Ieri c'è stato appunto l'annuncio relativo alla necessità di avviare una riflessione sul lancio di una ricapitalizzazione, ma al momento... Dopodiché, così a memoria, di solito quando si vende in maniera così massiccia i volumi sono stati molto alti, vero Livia? I volumi, allora, per la Popolare di Milano sono stati scambiati circa 21 milioni di azioni oggi, per UbiBanca 27. Quindi altini, e quando i volumi sono così alti e il calo è così forte, adesso lo dico così come memoria, qualcosa sotto c'è, anche perché di solito certe informazioni chi lavora per le banche le ha delle volte, no? Questo lo possiamo dire, per cui qualcosa sarebbe strano, mettiamola così, un tonfo del 12% così senza notizia. Ma non mi riferisco tanto a UbiBanca, dove il miliardo uno può fare il calcolo sull'aumento di capitale, ma soprattutto mi riferisco alla Popolare di Milano e al Banco Popolare. Strano un calo del 7% così, solo sull'ondata speculativa. Invece sugli altri fronti, Livia, segnaliamo oltre a A2A anche Fiat. Domani c'è l'assemblea, Sì, domani c'è l'assemblea degli azionisti a Torino, e Fiat ha guadagnato l'1,8%, è andata bene anche Exor, che è l'azionista di riferimento, che ha guadagnato l'1%. Bisogna ricordare che ieri Exor ha comunicato i dati, il 2010 si è chiuso con un utile consolidato di circa 137 milioni contro la perdita di 389 milioni del 2009. Per quanto riguarda Fiat, inoltre oggi il Lingotto ha annunciato l'intenzione appunto di procedere a un'emissione obbligazionaria ad 1 miliardo di euro, e la domanda raccolta dalle banche è stata superiore intorno a 3,5 miliardi. Grazie Livia Zancanè. Faccio anche notare che il miglior titolo è stato Cell Therapeutics più 9,25% e il peggiore appunto UbiBanca meno 12,3%. Mamma mia, quanti insulti perché ho detto l'onda emotiva di quello che è successo in Giappone, l'onda non è emotiva, è nucleare. Ho capito, abbiamo solo detto che non si può, è difficile ragionare adesso di nucleare, ma che in realtà il ragionamento su come ci garantiamo le fonti di approvvigionamento energetico va fatto prima o poi. Poi uno può essere contro il nucleare, a favore del nucleare, metà e metà, questi sono fatti suoi. Invece, dico agli ascoltatori, non ho novità sul... l'ospedale Santa Lucia di Roma, quello che è specializzato per i bambini, ma non solo, che hanno problemi di deambulazione, è una clinica molto specializzata, la regione aveva levato i soldi, non abbiamo rintracciato la Polverini non vuole parlare con noi, non so che faccio, non è che posso obbligarla a venire in trasmissione. Restiamo in tema di mercato, ma parliamo anche di mercato illegale o di fusione tra capitalismo legale e capitalismo mafioso, perché oggi il procuratore generale di Caltanissetta, Roberto Scarpinato, a lungo magistrato antimafia a Palermo, ne ha parlato in audizione al Parlamento europeo a Bruxelles, parlando del ruolo economico della mafia criminale e delle associazioni criminali. Un nuovo volto delle mafie. Ascoltiamo questo brano di un'intervista che poi Raffaella Calandra manderà in onda nel suo programma Storiacce sabato alle 13:15. con la globalizzazione e la nascita in Cina di una neoborghesia mafiosa che viene calcolata oggi in 250 milioni di persone e di un potenziale mercato di nuovi consumatori di droga. Si pensa possa portare nei prossimi 20 anni il popolo dei consumatori di droga a livello mondiale a circa un 15% della popolazione mondiale. Ci troviamo dinanzi a dimensioni talmente ingovernabili con gli strumenti del diritto penale da fare pensare ad approcci macropolitici diversi, come per esempio una liberalizzazione delle droghe. Ci troviamo dinanzi a un fenomeno di mercato illegale che si sovrappone al mercato legale e che addirittura si ibrida in certe forme. Mi ha molto colpito leggere nell'ordinanza di custodia cautelare che è stata emessa a Milano qualche giorno fa, il giudice ha scritto che era veramente inquietante il livello di consenso sociale diffuso. Lei ha toccato uno dei punti adesso anche di più forte dibattito politico giudiziario, in particolar modo a Milano, cioè quel consenso sociale va di pari passo con l'assenza di denunce. Paradossalmente siamo più avanti noi in Sicilia che in questo momento in Lombardia, perché in Sicilia c'è un pezzo importante di Confindustria che si presenta con personaggi come Ivan Lobello, come Montante, ma anche altri, Catanzaro, eccetera, che ha iniziato un lavoro di crescita, di sensibilizzazione culturale all'interno del mondo imprenditoriale, che invece questo non accade in Lombardia. Non so bene da questo che cosa dipende. Alcuni imprenditori mi davano una spiegazione, mi dicevano che molte imprese operano in qualche modo nella illegalità, sotto il profilo dell'evasione fiscale, sotto il profilo della violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, sotto il profilo della violazione delle norme sindacali, e che quindi sono ricattabili dalle mafie che conoscono questi scheletri nell'armadio e preferiscono tacere. Quindi anche le varie inchieste che apparentemente sembrano vertere su tutt'altro, tipo vicende di corruzione o vicende di evasione fiscale, devono essere considerate in quest'ottica come spie di una futura maggiore aggredibilità e o comunque disponibilità. Le imprese che operano nell'illegalità sono facilmente permeabili alle infiltrazioni mafiose, sono ricattabili. Non è un caso che in Sicilia Lobello e Montante dicono che per combattere la mafia occorre che le imprese intanto ripristino pienamente un mercato che sia veramente tale e quindi opera in condizioni di legalità. Lei ha parlato appunto della convenienza anche delle imprese, arrivano a conquistare, come lei stesso ricordava, posizioni dominanti in certi settori. Ci sono dei settori in cui questo tipo di meccanismo si è dimostrato in modo più palese che in altri? Per quanto riguarda le regioni meridionali, fino all'inizio, alla fine degli anni 90, il settore degli appalti pubblici e dell'edilizia è stato il terreno principale di operatività dei sistemi criminali. Ma dopo il trattato di Maastricht, che ha imposto rigorosi tagli alla spesa pubblica, il settore degli appalti pubblici sta subendo una progressiva contrazione, diciamo, e poi diventa un business sempre più rischioso. La nuova mafia di ultima generazione dei colletti bianchi ha cominciato a prendere altre strade, tra cui quello del settore della produzione di energie alternative. Per esempio il settore del fotovoltaico si era creata una situazione di oligopolio che era assolutamente anomala. Il mercato era nelle mani di una decina di persone che si nascondevano dietro una girandola di società diverse, che poi però ci si accorgeva che queste imprese prima o poi finivano sempre nelle mani degli stessi soggetti. Soggetti che avevano contatti anche con la mafia giapponese, se non erro. Si tratta di uomini in cerniera, interfacciano la mafia tradizionale con soggetti che operano nella grande finanza. Attraverso i rami siamo arrivati anche a delle società finanziarie che operano a livello internazionale, nel cui capitale noi abbiamo ritenuto di poter individuare anche capitali che vengono dagli yakuza giapponesi e dalla mafia russa. Non possiamo commentare, lo dico a chi sta scrivendo di nuovo, il tonfo di alcune banche. Non Unicredito e Intesa, per carità, Unicredito ha perso il 3,70, Intesa 4,5, ma soprattutto UbiBank, 1 miliardo di euro l'aumento di capitale, meno 12,3%, Popolare di Milano meno 7% e Banco Popolare meno 7%. Devo invece commentare una notizia che farà arrabbiare gli automobilisti, gli ascoltatori in questo momento. Perché? Perché pochi istanti fa l'Autorità per l'Energia Elettrica ha deciso l'aumento delle bollette a partire da aprile. Più 4% la luce, più 2% il gas, un rincaro complessivo all'anno per la famiglia tipo di quasi 38 euro, e lo so. Purtroppo noi le notizie le dobbiamo dare, altro non facciamo. Torniamo invece ad occuparci, come promesso, di un tema che abbiamo seguito fin dall'inizio in questo programma, ossia l'Expo di Milano, quello che si terrà nel 2015. Milano ha vinto, a Milano va l'Expo 2015, a Milano si farà l'esposizione universale del 2015, si farà, sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. Eh sì, erano 3 anni fa, quasi esatti, 31 marzo 2008, qualcuno di voi forse se la ricorda, la nostra telecronaca in diretta, la voce della collega Paola Anania, così diamo i crediti a tutti, e poi però è successo un po' di tutto su questo Expo, noi lo stiamo seguendo da tempo, senza polemica, ma insomma un anno per decidere chi doveva guidarlo, poi un altro anno in cui chi, e mi riferisco a Lucio Stanca, lo guidò, insomma... non diede, mettiamola così, i risultati sperati, e poi a 3 anni esatti ancora, anche oggi sui giornali, un po' di polemiche, terreni, ci sono i terreni, come li compreremo, li metteremo in comodato d'uso. Insomma, su questo Expo per ora si è molto discusso della forma, della sostanza poco, a meno che per sostanza non si voglia intendere anche questa polemica di cui non si sentiva il bisogno sull'orto, più orto, meno orto, più tecnologia, meno tecnologia. Ed è con questa premessa che io faccio anche i complimenti, oltre che gli auguri, a quello che è stato nominato l'amministratore delegato dell'Expo 2015, il nostro ospite oggi, dottor Giuseppe Sala, nominato lo scorso luglio. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Ha passato un'estate d'inferno lei? Difficilina. E chi gliel'ha fatto fare? Ma sa, quando a 53 anni capita un'occasione del genere, imparare delle cose e un po' anche cambiare vita a 53 anni, bisogna farlo. Credo che sia giusto e ne sono molto contento. Ma dopo, diciamo, tutto il bailam che aveva accompagnato i primi 2 anni di parto molto molto travagliato, quasi da forcipe di questo Expo, lei non ha avuto paura all'inizio? Ma no, anche perché sapevo che il primo periodo sarebbe stato quello più difficile. Finché non si vedrà macchine muoversi, finché non si vedranno lavori sui terreni, sarà difficile spiegarlo. L'Expo non è un'Olimpiade, è molto semplice, è qualcosa un po' che va compreso, e quindi questo è un po' lo sforzo del momento. Lei è ancora convinto che il primo periodo sarà quello più difficile? Assolutamente sì. Allora, io registro, al di là della massima fiducia, perché noi non siamo pessimisti sull'Expo, osserviamo quello che accade, che lei ha avuto il plauso e, diciamo, il voto unanime, anche se di voto teorico sì, si può parlare, anche dell'opposizione, vari consiglieri del comune, della regione, che appartengono non certo alla maggioranza di governo regionale né comunale, hanno detto teniamoci comunque Sala. La preoccupa questo così consenso bipartisan? No. Teme che ci sia un trucco sotto, oppure invece è un modo anche per andare avanti con le spalle un po' più coperte? No, mi conoscono, ho fatto per un anno e mezzo il City Manager di Milano, quindi spero abbiano apprezzato la mia correttezza e la mia dedizione al lavoro. Ma secondo lei è importante avere un consenso bipartisan in una città come Milano? Adesso siamo sotto elezioni, lasciamo stare la parte più politica, ma per un evento che è tutto tranne che un evento politico e tranne che un evento comunale e regionale, lei si sente più sicuro, più tranquillo se vede che c'è consenso anche da parte degli esponenti illustri dell'opposizione? Ma certamente, adesso noi non siamo così folli da pensare che 20 milioni di visitatori verranno solo per vedere l'Expo. Dovrà essere preparata Milano, dovrà essere preparata l'Italia, dovranno sentire tutti che è un'opportunità, quindi è necessario il consenso di tutti. Veniamo ai temi invece che sono anche oggi sui giornali. Allora, su queste aree, se ho ben capito, perché c'è chi vorrebbe il comodato d'uso, quindi terreni dati in prestito e restituiti con opere realizzate e un cambio di destinazione d'uso nel finale, quindi per garantire anche l'edificabilità, e c'è chi invece vorrebbe l'acquisizione dei terreni attraverso una nuova società, quindi Comune e Regione Lombardia. Lei personalmente ha un'ipotesi di scuola che preferisce? No. Comodato d'uso, acquisizione? No, direi che per me è importante che i terreni ci siano presto. Noi dobbiamo lanciare una prima gara importante, quindi la cosa che a noi importa è che i terreni ci vengano consegnati il più presto possibile. Presto quando vuol dire, secondo lei? Dobbiamo lanciare la prima gara, che è quella relativa alla rimozione delle cosiddette interferenze, cioè pulire l'area entro giugno, e quindi entro giugno dobbiamo avere i terreni, assolutamente. Ecco, quella è una gara che doveva partire ad aprile, cioè sì, adesso, e è slittata proprio perché non c'è ancora un accordo, diciamo, regione comune sui terreni, a giugno. Vorrei capire, giugno è una data limite, per, così iniziamo a entrare anche nella tempistica, oppure diciamo va bene giugno ma potrebbe andare bene anche settembre? Ma, realisticamente non c'è proprio una data limite, certo ne perde la qualità del lavoro, noi più perderemo mesi e più potremo garantire un lavoro meno bene fatto, diciamo, per così dire, per cui non c'è esattamente una data limite, però i nostri piani sono costruiti quarter by quarter, trimestre per trimestre, e quindi prevediamo di dover partire a giugno. La qualità del lavoro in che modo verrebbe compromessa, giusto per capire? Noi dobbiamo lanciare delle gare a cui parteciperanno studi di architettura, società di ingegneria, facciamo una progettazione preliminare in casa e poi lanciamo la gara per il definitivo. Più riduciamo i tempi per la nostra progettazione e per le gare stesse, e meno avremo un risultato positivo. Ecco, su questo c'è chi teme, con un po' di malizia italica, per carità, che si voglia arrivare un po' in ritardo per poi fare una cosa all'italiana, cioè con le procedure d'emergenza e quindi emergenziali, con le corsie preferenziali, però in questo modo creando anche, se mi permette il termine, una maggiore opacità in tutto il percorso, che invece, per come lei l'ha illustrato, è un percorso fatto di gare, di bandi, di vittorie e di sconfitte. Lei teme che l'obiettivo finale possa essere di arrivare a una gestione, diciamo così, emergenziale dell'Expo? Beh, sicuramente lo vorrei evitare. Il motivo per cui io sono lì e penso di rimanere lì fino al 2015 è fare il tutto nel totale rispetto delle procedure. Non mi auguro che si arrivi a una soluzione con un commissario straordinario o con qualunque altra definizione che possa lavorare in maniera diversa da quella a cui abbiamo pensato, cioè gare aperte a tutti. Torniamo a parlare anche dei finanziamenti. Insomma, c'è una parte di questi soldi che serve alla società Expo per andare avanti, per la gestione ordinaria, e un'altra parte, per spiegarlo a tutti, che serve per comprare i terreni e oppure affittarli, vedremo che cosa, se avrà ragione la regione oppure il comune, e poi per fare gli investimenti. In questo momento le quote di pertinenza sono 14 milioni e mezzo, 14 milioni e 7 per il comune e per la regione, la metà a testa, la metà, quindi 7 milioni qualcosa per la provincia, e i soldi per ora sono arrivati dal governo e dalla regione. Ora che il comune di Milano ha approvato il bilancio, lei si sente tranquillo sulla quota della Moratti? Sì, e così anche lo sarò sulla provincia. Credo che il problema non si prospetterà certo quest'anno. Abbiamo due soci, che sono la provincia e la Camera di Commercio, che prospetticamente, non per quest'anno, dicono di avere difficoltà nel reperimento dei fondi, e ci penseremo. Comunque il governo, che è il socio al 40%, ci dà il suo massimo supporto. Ecco, no, mi faccio capire, ma dice non avere difficoltà quest'anno perché le teme l'anno prossimo? No, perché ripeto, questo sto al dichiarato del presidente della provincia, Podestà, dice se non potrò uscire dal patto di stabilità avrà un problema. Ok, un socio al 10% avrà un problema, sarà uno dei tanti problemi con i quali ci confronteremo. Allora, immaginiamo che, il dubitativo è d'obbligo, però immaginiamo che i terreni vengono risolti, il comune mette i soldi, il bilancio è stato approvato in effetti, e si va avanti con quella che ho chiamato bonifica. Lei correttamente ha spiegato che la rimozione, diciamo, dei detriti, non c'è niente da bonificare in queste aree. No, abbiamo già fatto carotaggi e le aree sono pulite. Ecco, immaginiamo questo. A questo punto, come se i lavori fossero già partiti, cosa che ancora non è avvenuta, è già iniziata la polemica sull'orto botanico. Adesso non è che mi interessi molto sapere quanto lungo sarà l'orto nel botanico nell'Expo. L'Expo si chiama Nutrire il Pianeta, è dedicato all'alimentazione in senso lato, e quindi anche, diciamo, se vogliamo, una forma di autosufficienza alimentare. Beh, insomma, lei è vero che vuole ridurre la quota ha fatto arrabbiare Boeri, ha fatto arrabbiare Carlin Petrini, insomma tutto il mondo che ruota attorno al cosiddetto concetto dei verdi. Si è un po' inalberato, vuole trasformare l'Expo in meno orto, più tecnologia, macchine in movimento terra, no? Ma guardi, sa, come deve essere l'Expo alla fine non lo dirò nemmeno io, non lo dirà Boeri, non lo dirà Petrini, lo diranno i partecipanti e gli espositori, lo diranno e lo stanno dicendo i paesi, lo stanno dicendo le aziende. Il problema non è fare l'orticello di fianco al padiglione della Francia, e far sì che la Francia porti il suo sapere rispetto all'alimentazione. Questo è quello che mi sta a cuore. Poi la tecnologia è uno strumento, ma il problema fondamentale è pensare che nel 1930 eravamo 2 miliardi di persone sulla Terra. Oggi siamo 6 miliardi e nel 2050 saremo probabilmente 9 miliardi. Non è con l'orticello che si risolve il tema. E questo lo dico nel grande rispetto del lavoro che Petrini ha fatto e nella grande stima dell'uomo. Ma lei lo vuole ridurre questo orto o no? Perché poi non ho capito. No, io voglio confermare assolutamente le serre e gli spazi dedicati al bioclima. In sintesi, io sto dicendo che non voglio e non posso, perché è questo che mi dicono i paesi, imporre ad ogni paese di farsi l'orto di fianco al padiglione. Questo è molto, molto sinteticamente il mio pensiero. Penso che scientificamente e culturalmente non ha senso immaginare la coltivazione di un banano nella periferia di Milano, per essere preciso e diretto. No, sono d'accordo con lei, no, mi veniva a sorridere perché pensavo al padiglione francese, chissà se avrà la Parmalat dentro tra le aziende, però diciamo sono temi che qui non la voglio mettere in difficoltà, per ora perlomeno, poi vediamo cosa farà la Francia e quante aziende italiane saranno lì presenti. Andiamo avanti invece sui temi. Lei tempo fa annunciò anche l'obiettivo, perché poi l'Expo ha un difetto strutturale, non quello di Milano, può avere può lasciare poca eredità, poca memoria sul territorio. Siviglia è stato un mezzo flop da questo punto di vista, Shanghai è andata un po' meglio, ma lì c'era tutto un altro tipo di impianto. Allora l'importante sarà, al di là dell'utilizzo dei terreni finito l'Expo, capire cosa resta. Lei propose un centro sullo sviluppo, un centro che andasse a studiare la sostenibilità e che, se ho ben capito, restasse come eredità dell'Expo. Lo porterete ancora avanti oppure uno di quei progetti che è destinato a finire più in seconda fila per assenza anche forse di risorse? No, su questo le risorse ci sono, anzi noi stiamo in questo momento vagliando lo statuto, i soci previsti sono il Comune, Expo, due ministeri, che sono il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell'Ambiente. Il tema è far sì che il sapere italiano nel campo delle culture sia messo a disposizione, ma soprattutto perché servono i soldi? Non per studiare, servono perché anche dopo l'Expo, di fronte a un problema di una coltivazione in un paese del Nord Africa, si possa portare sapere, ma portare tre tecnici che vadano a impiantare, a portare in loco il nostro sapere. Si andrà avanti. Allora, i costi dell'Expo, adesso è difficile stabilirli tutti assieme, noi abbiamo dei dati che parlano di 1,2 miliardi per l'organizzazione, però poi ci sono 20 milioni di visitatori attesi, bisogna capire quali saranno i ricavi. Vorrei capire una cosa, il costo del sito, se mi corregga perché abbiamo forse dati vecchi, era intorno al 1,7 miliardi complessivamente dato. Vorrei capire una cosa, secondo lei quanto è alto il rischio, e già l'abbiamo visto, che la criminalità organizzata si muova su un evento come l'Expo, abbiamo visto anche arresti di famiglie dell''Ndrangheta che si stavano muovendo in questa direzione, per fortuna bloccate, mi riferisco alla Cosca, Ficara, la Tella, che cosa farete voi per tutta la parte degli appalti? Perché i cittadini in questo momento, oltre che avere un Expo che parta subito, vogliono avere un Expo che non gonfi, diciamo, quelle che sono le spese attese, o meglio, le spese finali rispetto alle spese attese. Certo. Stiamo lavorando con la prefettura, non voglio sottovalutare il problema. Il problema oggi, anche se non abbiamo segnali concreti, ma sa, le gare non sono partite, quindi non potremmo neanche averli. Ma il problema non è da sottovalutare. Stiamo lavorando col prefetto, il punto è creare delle cosiddette white list, cioè chi parteciperà alle gare dovrà essere censito precedentemente. Il punto è cercare di avere una gestione amministrativa attenta, e quindi seguire le cose attraverso anche delle task force dedicate a cui lavorerà anche la prefettura. Quindi non stiamo certamente sottovalutando il problema. Ecco, dottor Sara, insomma, lei, come dicevo all'inizio, lei ha riconosciuto una capacità manageriale e l'ha riconosciuta da fronti diversi, quindi ogni tanto questo paese riesce a non essere guelfo e ghibellino. Qual è la difficoltà più grossa che ha trovato in questo momento? Lo può dire tranquillamente, tanto non ci sente nessuno. Spero vi sentirò molto, spero che la vostra audience sia in salita quotidianamente. Ma guardi, io sapevo che il 2011 sarebbe stato un anno difficile, come dicevo. Oggi è difficile spiegare qualcosa che in natura non è così conosciuto. L'Italia ha ospitato un Expo nel 1906. Non è semplice spiegare alla città, alla Lombardia e al paese quello che è l'Expo. Quindi è un fatto di racconto, per questo bisogna fare cose pratiche e bisogna usare il simbolismo. Beh, massima disponibilità anche nostra, per quel poco che contiamo, ma insomma, come radio, come gruppo, a raccontare l'Expo con la massima obiettività possibile e senza nessun tipo di, così, di disfattismo. Italico, mi dica una cosa, però, secondo lei ci sono troppi soggetti che intervengono? troppe teste pensanti? Ma non penso adesso, non reputo essere quello il problema, francamente. No, mi pare veramente sia un fatto di fase. Guardi, dicevo, gli elementi fondamentali, le chiavi di volta sono il consenso degli espositori, perché saranno loro quelli che verranno e che investiranno. Questo è il mio punto. E da questo punto di vista, nessun Expo precedentemente ha avuto a 50 mesi dall'apertura già 14 paesi che hanno confermato. Perché questo è un po' il paradosso, ma è il paradosso che ci deve far pensare. Se i paesi vogliono venire e noi stiamo a discutere degli orti botanici. Ma sì, ma i paesi, e io viaggio molto, molto all'estero, i paesi, l'idea di venire nel 2015 a Milano per un Expo italiano basato sull'alimentazione, che è un concetto molto italico, i paesi ne sono veramente felici. Dottor Sala, ma lei quindi vorrebbe più poteri? Sì. Sarebbe bello, no, è una battuta, sono una battuta. Vorrei essere più rapido di quanto sono, quindi mi pongo prima il tema io del mio lavoro. Io vorrei essere più rapido, francamente, perché di questo punto di rapidità ce n'è bisogno. Non è un fatto solo di poteri. Quindi non è un fatto di deleghe, di commissario straordinario? No, è la capacità di fare accadere le cose in fretta, la capacità di rispettare i tempi, la capacità di star in linea con la programmazione prevista. E la responsabilità di questo di chi è, però? La responsabilità di questa è mia, del Consiglio, soprattutto, di procedure. Abbiamo molti livelli di controllo perché siamo una città pubblica, quindi è tutto normale, ma stiamo facendo un'operazione straordinaria in tempi, non voglio dire corti, ma insomma in tempi che in Italia facciano. No, ma apprezzo l'operazione straordinaria. Un'ultima domanda, cioè, immaginando l'Expo appunto come un grande orto, ma non solo, una grande vetrina di quella che è l'alimentazione sostenibile per il futuro, nei campi esistono anche i volatili. Lei in questo momento ha visto più falchi o avvoltoi volteggiare sopra l'Expo? Ma avvoltoi francamente pochi, al di là pochi di tutte... per ora o no, pochi? Al di là delle chiacchiere, sa, poi alla fine il famoso 1,7 miliardi di cui parlava lei, ad oggi abbiamo investito ancora poco. Io garantirò una guida trasparente e attenta affinché non ci sarà un problema di avvoltoio. Vedo molta a volte un po' l'aspetto deleterio del nostro essere italiano, anche io sono italiano, cioè stiamo a aspettare, vediamo, poi si risolverà, un po' molto critici, ma sono convinto che poi arriveranno tutti. Molto critici e poco propositivi? Spesso è così. Grazie e soprattutto in bocca al lupo, perché ripeto, noi l'Expo lo seguiamo con l'entusiasmo che avete sentito di 3 anni fa e poi anche con lo scetticismo che avete ascoltato in alcune occasioni, ma ci sembrava quantomeno un dovere deontologico, però con la speranza che tutto questo scetticismo poi porti anche a fare le cose, farle bene, in fretta, non lo so, tanto la scadenza è il 2015, però con i criteri che le ricordavo. Quindi veramente in bocca al lupo all'amministratore delegato dell'Expo 2015, Giuseppe Sala. Grazie a voi e saluti a tutti gli ascoltatori. E buona serata anche da parte mia a tutti gli ascoltatori, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.